Probabilmente ciò che gli studiosi definiscono l'aspetto ctonio della dea, la sua raffigurazione in forma surreale a volte grottesca, rappresenta il tentativo delle nostre antenate di confrontarsi con gli aspetti più oscuri della realtà, dando un nome e una forma alla paura dell'ignoto. Le immagini ctonie, maschere, dipinti, murali e statuette che simboleggiano la morte in forme fantastiche, a volte persino umoristiche, potevano anche essere destinate a impartire all'iniziato o all'iniziata un senso dell'unità mistica con le forze, sia pericolose che benigne, che governano il mondo. Insomma, così come si celebrava la vita nei rituali e nelle immagini religiose, si riconoscevano e si rispettavano anche i processi distruttivi della natura. Mentre le cerimonie religiose e i riti erano destinati a dare all'individuo e alla comunità un senso di partecipazione e di controllo su quei processi della natura che danno e mantengono la vita, altri riti e cerimonie tentavano di tenere a bada quelli più spaventevoli. In ogni caso, le numerose immagini della dea nel suo aspetto duale di nascita e di morte sembrano esprimere una visione del mondo in cui lo scopo principale dell'arte e della vita non era conquistare, saccheggiare, far bottino, bensì coltivare la terra e fornire l'occorrente materiale e spirituale per una vita soddisfacente. E in complesso, l'arte del Neolitico e ancora più la successiva arte minoica sembra esprimere l'idea che la funzione primaria delle forze misteriose che governano l'universo non sia di ottenere obbedienza, punire, distruggere, ma semmai di elargire. Sappiamo che l'arte, in particolare quella mitologica o religiosa, riflette non solo gli atteggiamenti di un popolo, ma anche la sua peculiare forma di cultura e di organizzazione sociale. L'arte incentrata sulla dea, che abbiamo preso in esame con la sua stupefacente assenza di immagini di dominio maschile o di guerra, sembra che riflettesse un ordinamento sociale in cui le donne svolgevano un ruolo centrale, dapprima come capiclan e sacerdotesse, in seguito con altri importanti incarichi. In questo ordinamento sociale, uomini e donne lavoravano insieme in un'associazione paritetica per il bene comune. È ragionevole dedurre, non essendoci una glorificazione di deità maschili colleriche, di sovrani con armi e folgori o di grandi conquistatori che trascinano schiavi abbietti in catene, che ciò avvenisse perché nella vita reale non esisteva il corrispondente di queste immagini. E se la principale immagine religiosa era quella di una donna che partorisce, e non come ai nostri tempi quella di un uomo che muore sulla croce, si può ragionevolmente dedurre che nella società e nell'arte prevalevano la vita e l'amore per la vita, anziché la morte e la paura della morte. Il culto della dea. Uno degli aspetti più interessanti del culto preistorico della dea è quello che lo studioso di mitologia e storia delle religioni Joseph Campbell definisce il suo sincretismo. Essenzialmente ciò significa che il culto della dea era allo stesso tempo politeista e monoteista. Era politeista in quanto la dea veniva adorata con nomi differenti e sotto forme molteplici, ma era anche monoteista, nel senso che possiamo indubbiamente parlare di fede nella dea negli stessi termini in cui parliamo della fede nel Dio, come entità trascendente. In altre parole, ci sono straordinarie somiglianze tra simboli e immagini associati in luoghi diversi al culto della dea, nei suoi vari aspetti di madre, progenitrice o creatrice e vergine o fanciulla. Una possibile spiegazione di questa notevole unità religiosa è che in origine la dea sembra fosse adorata da tutte le antiche civiltà agricole. Troviamo testimonianze della deificazione della femmina che per la sua caratteristica biologica dà nascita e nutrimento, proprio come fa la terra, nei tre centri principali delle origini dell'agricoltura, l'Asia Minore e l'Europa sudorientale, la Thailandia nell'Asia sudorientale e più tardi anche l'America centrale. La dea madre, come origine di ogni forma di vita, appare in molte delle più antiche storie sulla creazione in differenti parti del mondo. Nelle Americhe è la signora dalla sottana di serpente. Interessante anche perché, come in Europa, Medio Oriente e Asia, il serpente è una delle prime manifestazioni della dea. Nell'antica Mesopotamia, questo stesso concetto si trova nell'idea della montagna del mondo come corpo della dea, madre universale, idea sopravvissuta fino in epoca storica. E come Nammu, la dea sumera che genera il cielo e la terra. Il suo nome viene espresso in un testo cuneiforme pressappoco del 2000 a.C., ora al Louvre, con un ideogramma che rappresenta il mare. Un altro tema ricorrente è l'associazione del principio femminile alle acque primordiali. Per esempio, nella ceramica decorata dell'antica Europa, il simbolismo dell'acqua, spesso insieme all'uovo primordiale, è un motivo frequente. Qui la grande dea, talvolta sotto forma di dea uccello o dea serpente, presiede alla forza dispensatrice di vita dell'acqua. Sia in Europa che in Anatolia si intrecciano i motivi della dea come apportatrice di pioggia ed elargitrice di latte. E vasi e contenitori rituali sono un equipaggiamento comune nei templi a lei dedicati. La sua immagine viene anche associata ai contenitori per l'acqua, che talvolta riproducono il suo aspetto antropomorfo. Come dea egiziana, Nut, ella è l'unità fluente delle acque primordiali celesti. In seguito, sorgerà dalle acque del mare con l'aspetto della dea cretese Ariadne, la Santissima, o di quella greca Afrodite. Questa immagine era ancora così potente nell'Europa cristiana da ispirare la celebre Venere sorgente dalle acque del Botticelli. Anche se questo è uno degli aspetti della nostra evoluzione culturale che raramente ci vengono insegnati, molto di ciò che si è sviluppato nei millenni di storia del Neolitico è ancora oggi presente. Come scrive Mellart, il culto della dea ha costituito il fondamento su cui si sono sviluppate tutte le culture e le civiltà successive. O, come dice Maria Gimbutas, persino dopo la distruzione del mondo rappresentato dalle immagini mitologiche dei nostri progenitori che adoravano la dea, esse rimasero nel sostrato che alimentò i successivi sviluppi culturali europei, arricchendo enormemente la psiche europea. È davvero sorprendente, se osserviamo attentamente l'arte del Neolitico, quanto a lungo siano sopravvissute le immagini della dea. E in che misura la maggior parte delle opere correnti di storia delle religioni trascuri di evidenziare questa realtà affascinante. Proprio come la dea incinta del Neolitico è una discendente diretta delle Veneri panciute del Paleolitico, la stessa immagine sopravvive nella Maria gravida dell'iconografia cristiana medievale. La rappresentazione neolitica della dea giovane o vergine viene ancora venerata nell'aspetto di Maria come Vergine Santa e naturalmente la figura neolitica della Dea Madre che regge il suo figlio divino è tuttora evidentemente riconoscibile nella Madonna con Bambino del Cristianesimo. Immagini tradizionalmente collegate alla Dea in quanto simboli della potenza della natura, come il toro e il bucranio, le corna di toro, sono sopravvissute fino in epoca classica e in seguito in epoca cristiana. La successiva mitologia patriarcale, pagana, tra virgolette, fece del toro un suo simbolo centrale. Più tardi ancora, nell'iconografia cristiana, il dio toro cornuto si trasformò da simbolo della potenza virile a rappresentazione di Satana o del male. Ma in epoca neolitica le corna di toro, che ora abitualmente associamo al diavolo, avevano un significato del tutto diverso. Sono state rinvenute immagini di corna di toro sia nelle case che nei templi di Chtal-Hök, dove corna di consacrazione a volte formano delle file o degli altari sotto le rappresentazioni della dea. E nella stessa località il toro stesso è una manifestazione della potenza suprema della dea. È un simbolo del principio maschile, ma come tutto ciò che esiste, scaturisce da un grembo divino ogni dispensatore, come viene rappresentato graficamente in un tempio di Chtal-Hök, in cui si mostra la dea che dà alla luce un giovane toro. Persino le raffigurazioni neolitiche della dea in due forme simultanee, come le dee gemelle rinvenute a Chtal-Hök, sono sopravvissute fino in epoca storica. Per esempio, le rappresentazioni greche classiche di Demetra e Core come duplice aspetto della dea, madre e fanciulla, simbolo della rigenerazione ciclica della natura. I figli della dea sono parte integrante dei temi di nascita, morte e resurrezione. La figlia rimasta in epoca greca classica come Persefone o Core. E allo stesso modo il suo figlio amante marito è sopravvissuto fino in epoca storica con nomi diversi: Adone, Tammuz, Attis e infine Gesù Cristo. Questa continuità del simbolismo religioso, apparentemente sorprendente, diviene più comprensibile se consideriamo che sia nella civiltà neolitico-calcolitica dell'antica Europa, sia in quella successiva minoico-micenea dell'età del bronzo, la religione della grande dea sembra fosse l'unica cosa davvero fondamentale della vita. Nel sito anatolico di Çatalhöyük, il culto della dea sembra permeare tutti gli aspetti dell'esistenza. Per esempio, sulle 139 sale portate alla luce tra il 1961 e il 63, più di 40 sembra siano servite come templi. Lo stesso modello prevale nell'Europa neolitica e calcolitica. Oltre a tutti i templi dedicati ai vari aspetti della dea, le abitazioni avevano degli spazi sacri con focolari, altari, panche e luoghi d'offerta. E lo stesso vale per la successiva civiltà cretese, dove, scrive Maria Gimbutas, i templi di un tipo o dell'altro sono così numerosi che c'è ragione di credere che non solo ogni palazzo, ma anche ogni casa privata fosse adibita a un tale uso. A giudicare dal numero dei templi, delle corna di consacrazione del simbolo dell'ascia doppia, l'intero palazzo di Cnosso doveva somigliare a un santuario. Ovunque si svolga lo sguardo, colonne e simboli spingono a ricordare la presenza della Grande Madre. Dire che i popoli che adoravano la dea erano molto religiosi significherebbe sottovalutare e in larga parte fraintendere la questione, perché allora non esisteva una distinzione tra sacro e profano. Come sottolineano gli storici delle religioni, in epoca preistorica e in larga misura fino in epoca storica, la religione era vita e la vita era religione. Un motivo per cui questo punto viene trascurato è che in passato gli studiosi della vecchia scuola credevano che l'adorazione della dea non fosse una religione, ma un culto di fertilità, e ci si riferiva alla dea come madre terra. Ma anche se la fecondità delle donne e della terra era ed è una condizione necessaria alla sopravvivenza della specie, questa definizione è davvero troppo semplicistica. Sarebbe per esempio come definire il cristianesimo un culto di morte, soltanto perché l'immagine principale della sua arte è la crocifissione. La religione del Neolitico, come le ideologie religiose e secolari del giorno d'oggi, esprimeva la visione del mondo del suo tempo. Il confronto tra il pantheon religioso del Neolitico e quello cristiano rivela drammaticamente in che misura quella visione del mondo differisse dalla nostra. Nel Neolitico, a capo della sacra famiglia, c'era una donna, la grande madre, la regina del cielo o la dea, nei suoi vari aspetti e forme. Anche i componenti maschili di questo pantheon, il suo consorte, fratello e o figlio, erano divini. Invece a capo della sacra famiglia cristiana c'è un padre onnipotente. E basta. Il secondo maschio del Pantheon, Gesù Cristo, è un altro aspetto della divinità, ma anche se padre e figlio sono immortali e divini, Maria, l'unica donna di questo facsimile religioso dell'organizzazione patriarcale della famiglia, è una comune mortale, evidentemente come le sue corrispondenti terrene di rango inferiore. Le religioni in cui la sola o la più potente divinità è maschile tendono a riflettere un ordinamento sociale a discendenza patrilineare, la successione paterna e domicilio patrilocale, la moglie va a vivere con la famiglia o il clan del marito. Viceversa, le religioni in cui la divinità più potente o l'unica è femminile tendono a riflettere un ordinamento sociale in cui la discendenza è matrilineare, cioè la successione per via materna, e allo stesso modo il domicilio è matrilocale, è il marito che va a vivere con la famiglia o il clan della moglie. Inoltre, una struttura sociale a dominio maschile per lo più gerarchica viene storicamente riflessa e conservata da un pantheon religioso dominato dal maschio e da dottrine religiose in cui la subordinazione delle donne viene sancita per ordine divino. Se non è patriarcato, deve essere matriarcato. Applicando questi principi alla crescente evidenza che per millenni di storia umana la suprema divinità era femminile, Numerosi studiosi dell'Ottocento e dei primi del Novecento giunsero a una conclusione apparentemente sconvolgente. Se la preistoria non era patriarcale, doveva essere matriarcale. In altre parole, se gli uomini non dominavano le donne, dovevano essere le donne a dominare gli uomini. Poi, quando le prove sembravano non sostenere più questa teoria di un dominio femminile, molti studiosi tornarono all'idea tradizionalmente più seguita. Se non c'era mai stato un matriarcato, pensavano, dopotutto l'umanità doveva essere sempre stata sottoposta a un dominio maschile. Le prove, comunque, non sostengono nessuna di queste conclusioni. Per cominciare, i dati archeologici ora in nostro possesso indicano che la società pre-patriarcale, nella sua struttura generale, era, anche secondo criteri moderni, notevolmente ugualitaria. In secondo luogo, sebbene si trattasse probabilmente di società matrilineari, in cui le donne, come sacerdotesse e capiclan, svolgevano un ruolo centrale in tutti gli aspetti della vita, ci sono poche indicazioni che la posizione degli uomini in questo sistema sociale fosse in qualche modo paragonabile alla subordinazione e alla repressione delle donne, tipica del sistema a dominio maschile che lo sostituì. Dai suoi scavi a Çatalhöyük, in Turchia, dove il principale scopo archeologico era la ricostruzione sistematica della vita degli abitanti della città, Mellert concluse che anche se dalle dimensioni degli edifici, dall'addobbo e dai doni funebri si poteva desumere qualche forma di ineguaglianza sociale, questa non era mai troppo vistosa. Per esempio, tra gli edifici di Çatalhöyük non ci sono differenze di rilievo. La maggior parte mostra una pianta rettangolare standardizzata, che occupa uno spazio di circa 25 metri quadrati di impiantito. Persino i templi non sono strutturalmente diversi dalle case, né sono necessariamente di dimensioni maggiori. Inoltre sono inframmezzati alle case in gran numero, indicando, una volta di più, una struttura sociale e religiosa a base comunitaria, anziché centralizzata e gerarchica. Lo stesso quadro generale emerge da un'analisi dei metodi di sepoltura. A differenza delle successive tombe dei capi indoeuropei, che indicano chiaramente una struttura sociale piramidale dominata al vertice da un despota temibile e temuto, quelle di Çatalhöyük non rivelano evidenti diseguaglianze sociali. Per quanto riguarda i rapporti tra uomo e donna, è vero, come fa notare Mellert, che la famiglia divina di Çatalhöyük viene rappresentata in ordine di importanza come madre, figlia, figlio e padre, e che ciò probabilmente rispecchiava le famiglie umane degli abitanti della città, che evidentemente erano matrilineari e matrilocali. È anche vero che a Çatalhöyük e in altre società del Neolitico, le rappresentazioni antropomorfe della dea, la vergine giovinetta, la madre matura e la vecchia nonna o progenitrice, fino alla creatrice primordiale, sono, come notò in seguito Pitagora, proiezioni dei vari stadi della vita di una donna. Un altro dato che indica un'organizzazione sociale matrilineare e matrilocale è che a Çatalhöyük, la piattaforma adibita al sonno, dove venivano sistemati i beni, il letto o il divano della donna, si trova sempre collocata nello stesso posto, sul lato est degli alloggi. La posizione di quella dell'uomo varia e spesso la piattaforma è notevolmente più piccola. Ma nonostante queste prove della superiorità della donna, sia nella religione che nella vita, non ci sono indizi di una forte disuguaglianza tra uomini e donne, né ci sono segni di oppressione e sottomissione dell'uomo da parte della donna. Diversamente dalle religioni dominate dal maschio della nostra epoca, in cui quasi sempre, fino a poco tempo fa, solo gli uomini potevano diventare membri della gerarchia religiosa, è dimostrato che in questo periodo c'erano sia sacerdoti che sacerdotesse. Per esempio, Mellert fa notare che, sebbene sembri probabile che fossero soprattutto le donne a officiare il culto della dea a Çatalhöyük, ci sono prove che rivelano anche la partecipazione di uomini. Lo studioso parla di due gruppi di oggetti trovati esclusivamente nelle sepolture dei templi: specchi di ossidiana e raffinate fibbie per cintura in osso. I primi furono rinvenuti soltanto presso corpi di donna, le seconde solo presso corpi di uomini. Ciò porta Mellert a concludere che si trattasse di attributi di alcuni sacerdoti e sacerdotesse, il che spiegherebbe la loro rarità e il fatto che siano stati rinvenuti nei templi. Indicativo è anche il fatto che le sculture di uomini anziani, a volte ritratti in una posizione che ricorda il celebre pensatore di Rodin, suggeriscono che le anziane e gli anziani avessero un ruolo importante e stimato. Scrive Maria Gimbutas, il mondo del mito non era polarizzato in maschile e femminile come avveniva tra gli indoeuropei e le altre popolazioni nomadi delle steppe dedite alla pastorizia. I due principi si manifestavano l'uno accanto all'altra. La divinità maschile, con l'aspetto di un giovane o di un animale maschio, sembra affermare e consolidare le forze della femmina attiva e creatrice. L'uno non è subordinato all'altra. Completandosi reciprocamente, il loro potere si raddoppia. Ancora una volta ci rendiamo conto che la disputa sull'esistenza o meno del matriarcato in tempi remoti, che periodicamente continua a riproporsi nelle opere accademiche e divulgative, sembra dipendere più dal nostro paradigma prevalente che da una qualunque testimonianza archeologica, vale a dire nella nostra cultura costruita sull'idea di gerarchia e di classificazione e sul concetto di gruppi contrapposti. Vengono enfatizzate le differenze rigide o polarità. Il nostro è proprio quel tipo di pensiero dicotomico. Se non è questo, è quello, che fin dall'antichità, secondo i filosofi, avrebbe potuto portare a un travisamento semplicistico della realtà. E in effetti gli psicologi oggi hanno scoperto che è indice di un livello di sviluppo cognitivo ed emozionale inferiore, meno evoluto psicologicamente. Nel brano che segue, sembra che Mellart abbia cercato di superare questo pasticcio di out-out, di se non è patriarcato deve essere matriarcato. Scrive, se la dea presiedeva i vari aspetti della vita e della morte della gente, dice Tal Huck, in qualche modo il figlio doveva fare altrettanto, anche se il ruolo di quest'ultimo è strettamente subordinato a quello della madre. Sembra che quello degli uomini nella vita fosse pienamente realizzato. Ma nella contraddizione tra ruolo pienamente realizzato e strettamente subordinato, ci troviamo di nuovo impelagati nei preconcetti culturali e linguistici insiti in un paradigma dominatore. I rapporti umani devono rientrare in un qualche tipo di ordinamento gerarchico, superiore e inferiore. Comunque, anche se consideriamo da un punto di vista strettamente analitico o logico la supremazia della dea e con essa l'importanza dei valori simbolizzati dai poteri di nutrimento e rigenerazione che si incarnano nel corpo femminile, non si giustifica la deduzione che a quel tempo le donne dominassero gli uomini. Ciò diventa più evidente se pensiamo all'unico rapporto umano che persino nella società a dominio maschile non viene concettualizzato in termini di superiorità e inferiorità. Si tratta del rapporto tra madre e la sua figliolanza. E il modo in cui lo percepiamo può effettivamente essere un residuo della concezione del mondo pre-patriarcale. La madre adulta, più grande e forte, è chiaramente in termini gerarchici superiore al figlio più piccolo e debole, ma non per questo consideriamo il figlio inferiore o di poco conto. Facendo analogie con questa differente struttura concettuale, possiamo renderci conto che anche se le donne svolgevano un ruolo forte e importante nella vita e nella religione della preistoria, non per questo gli uomini dovevano necessariamente essere considerati e trattati come sottoposti, perché tanto gli uomini che le donne erano creature della dea, oltre che creature delle donne a capo delle famiglie e dei clan. E mentre ciò sicuramente dava un grande potere alle donne, se pensiamo al rapporto madre-figlio, questo potere doveva essere più vicino alla responsabilità e all'amore che all'oppressione, al privilegio, alla paura. Insomma, nelle società neolitiche che adoravano la dea, sembra che di regola esistesse una concezione dell'autorità molto differente da quella che tuttora prevale, in cui il potere di togliere o di dominare, è simboleggiato dalla spada. Certo, non sempre ci si atteneva a questa idea femminile del potere come nutrizione ed elargizione, poiché queste erano società di gente in carne e ossa, non utopie della fantasia. Ma in ogni caso, questa concezione dell'autorità era l'ideale normativo, il modello da emulare, sia per le donne che per gli uomini.